verso Rutler, poi ne si donata che non si possono più mangiare i cioccolatini neri, devono farli in un altro colore perché sono il razzismo. Pensa tu a Double Dragon, quanti neri ho picchiato io. Come? A Double Dragon, ti ricordi il videogioco Double Dragon? No, non sono appassionato di videogiochi, mi puoi dire tutto quello che vuoi. Massimo che ho conosciuto, che tra l'altro non mi piaceva neanche, era FIFA, quello del gioco del calcio, ma non sono mai stato appassionato di videogiochi, solo Flipper io da ragazzo. No, pensa che io ho una console da giochi, come dentro una... non è neanche un simulatore, perché in realtà contiene i software originali di tutti i videogiochi degli anni 80-90, mi sembra che siano tipo 1800. Abbiamo fatto la modifica in gamma, sistemato il tubo cattolico, neanche a dirlo, certo parlante, purtroppo gamma e mono, i due giusti, i due switch, la gettoniera, se vuoi giocare a casa devi mettere il gettone, figurati. Poi te lo ripresi da sotto, giustamente, perché aperto. Un gioco al quale ero molto appassionato, era un gioco di due picchiatori praticamente, che si chiamava Double Dragon, è un personaggio sì, un personaggio no, era di colore, cioè oggi quel gioco praticamente sarebbe censurato per razzismo, capito? Che poi sta diventando, questo fatto del razzismo, cazzo, sta diventando un'esasperazione, ogni cosa, sei razzista, sei omofobo, cioè ogni cosa che uno fa un'osservazione viene considerato, cioè per dire vedi un tipo un po' strano, amichito e pizzicà, e su, ah tu sei omofobo, cazzo, come stai? Oppure se vedi quello fa un'osservazione, dice, questi cazzo di negri tutti i giorni qua, perché non se ne vanno a lavorare, ah, tu sei razzista, io ho tanti di quegli amici di colore, perché per me non dire neri o negri non è dispregiativo, cioè non lo vedo come una cosa dispregiativa, la realtà dei fatti sono di carnagione scura, dici negro, come dire nero è la stessa cosa, ma non perché sono razzista, anzi assolutamente no. Ciampa, io ho un caro amico di colore, se non lo chiamo lo ma ci facciamo delle risate, ogni volta gli faccio negro di me, che vuol dire negro di merda, no? Fatto negro di me, mi si stacca la compagnia, mi viene a baciare, eccetera, che puoi immaginare. Ah, ma io ci scherzo con questo, io sono amico, è biondo, e con me non ti senti tre capelli, ma scherzate, ne ho tantissime e mi rispettano pure, li rispetto io, perché quelli che non sono io sono grandi lavoratori, persone che ci sono da tanti anni e non stanno a mangiare i soldi degli italiani come questi nuovi che stanno arrivando. Vabbè, lasciamo prendere gli argomenti politici, sono di conoscere razzista, però cacchio, molte volte si esagera con questi argomenti. Avanti Gianni. Eia, vabbè, visto, prendo la palla al balzo, lui prendo il mic al balzo e niente, dai, grazie alla chiacchierata del QSO, io vi lascio, e niente, grazie alla chiacchierata, salutami a Fabio, vabbè, Manuel ha chiuso, Alessio, a te Roberto e a tutte le orecchie pelose che magari in questo momento stanno ascoltando, dai. Comunque, salutoni a tutti e au revoir, come si dice, dai, a Zibiri. Ehi, ciao Gianni, ben sentito come al solito, dai. Avanti, buon tutto, buona carica se devi farla o buon sonno se devi farla. Avanti Fabio e poi Antonio. Ciao Gianni, salutoni, è un piacere. Quando entri, se puoi cambiare l'antenna, non c'è tua. Perché è un piacere, comunque adesso svolta, a parte la radio per la cuccia, sempre bello fare questo con te. Ci vediamo alle prossime, buon 44, buona carica, buon tutto, mi raccomando, ci vediamo domani con questo canale, e ormai abbiamo solo questo canale, mono presto, avanti, avanti. Cambia antenna Fabio, così elimini questo disturbo che ti sporca la voce. Sì, avrò i finali di questo vecchietto, cioè avrò a 2 di ti sento un bel male quando fa. Antonio, ancora ci sono. Sì, io sono Fati. Sono 3. Sto ascoltando i costi filmati. Fa cuffia. Vabbè, devi dire tutto. Il Cagliari comunque, se interessa a qualcuno, sta perdendo 2-1. Hai messo l'ante? Il Cagliari siamo via, punto. È per conto mio. Se perde, peggio per loro. tutto quanto il tempo per sistemarsi, invece ci sono battute le palle, quindi si perdono la pazienza. Quindi quest'anno arriva l'ultima fase e si arrangiano. Fra 3-4 mesi ci sarà il campionato, speriamo bene, e poi si continuano da capo a un certo punto. No, stai uscendo male, a parte se andai ti sei abbassato tutto, brum brum brum brum brum. Sì, vediamo tanto nel frattempo se c'è qualcuno che vuole entrare. Attenzione ai canali 10. Eccolo qui, qui che ce l'ha fatta a cambiare l'antenna. C'è su, cosa ci mettiamo? Commutatore tra un po', che ne devo mettere 3 o 4 sul testa. E adesso sei ritornato tu, Dario, stai uscendo tranquillo e pulito. Ecco, poverino, chissà cosa gli stavo facendo con questa antenna. Il rosmetro stava lampeggiando e non c'è lampadina. Sicuramente c'era qualche rientro importante. Ecco, ma l'M600 stava fischiando, ma pure il dinamico a volte mi fischia. Figurati, vabbè, ogni volta che sono importante con quell'antenna lì, magari da un altro apparecchio eccetera, sento tic, ed è praticamente il misuratore di campo che arriva a fondo scala e si sbatte violentemente la lancetta. Pensa che campo c'è qua dentro. Me lo immagino. Allora, l'antenna è praticamente a una decina di centimetri dal bordo della battuta della finestra, appoggiata sopra una piastra di metallo. Pardon, la piastra di metallo è il fondo di un amplificatore Lenco. Pure. Sì, e nonostante questo la radio non è migliore. Dice che la Lenco non va bene, non mi pare. Allora vai tu. C'è anch'io una di quelle antenne. Vabbè, io ci attacco il boomerang, la verità. Adesso devo darlo a Antonio Dore, con questi giorni di telefono, gli dico guarda, viene tirati l'antenna del baracchino per la 27, e così non parli con noi, e se la metti in casa sua, me l'ha regalata. Antonio, ma se c'è qualcuno che non lo stia accendendo? Poi vabbè, quando accendo con l'Intec, quello piccolino omologato con l'antennino, perciò magari non pesca. Tu senti qualcuno, ma c'è anche pure l'antenna di giù. Ma di merda? Sì, c'è Fabietto, cioè, mi ha chiamato ieri al telefono, mi ha chiamato. E quindi la verità mi sono dedicato di entrare, che sono poi uscito per... perché sono andato in pizzeria insieme a Giovanna, mi ha invitato lui, sono sceso giù e sono entrato verso mezzanotte. E quindi comunque c'è, adesso li mettiamo a posto il PMR. Quindi che vuole entrare, scegli la 27 PMR per poter parlare, per quello non c'è problema. Le mettiamo nuovo in sesto quella frequenza per poter parlare. Ma noi ci ripartiamo tutti, e tutti ci sentiamo, eccetera, eccetera. 08, anzi, 081.5, giusto? 446.0.81.25, no, punto 5, così è la frequenza. Io con la postazione digitale, questo lo fa lui, basta che premo due tastini, richiamo la memoria, tasse, a volte me lo metto più avanti, si chiede ma display. Sì, comunque, allora, 446.081.25. Esatto, sì. Adesso va, dalla mattina la mettiamo in un'opera come prima, tale uguale, si parla, ci divertiamo come si faceva prima, entravamo tutti e ci divertivamo. Capo bene, ma ti sei attrezzato? Sì, ma non è che sia una cosa che mi interessa più di tanto, dai. Vabbè, penso che comunque è un canale alternativo, cioè frequentato, legale, eccetera, quello con quale si può... si possono triplare alcuni problemi, non so se mi hai capito. Sì, di tutto si può fare. E perciò infatti ricordo che Antonio nel caso dove l'ho detto adesso fare la ASMR. Quello per me è portato da 20 kW, però si ha continuato qua o là, alla fine di rimbalzo si parla. Ah, PMR o LPD stiamo parlando? PMR. Praticamente 446 081 25. Sì, no, già c'era, no, perché qualcuno andava nell'LPD, facevano qualche collegamento a lunghissima distanza, mettevano antenne direttive, eccetera, eccetera. No, no, negativo, io c'ho robettina piccola, piccola, piccola. Mia, però una pista che ho micro portatile che ha un aspetto sirio quasi, vero lei? No, è 29 portatile del cazzo, questo si è dietro. Sì, a William, che bello. La domanda è, utilizzo proprio con il PMR, a me mi diverto un pochettino, è la parecchia che non uso. Me lo porto a passeggio, me lo porto tipo borsetta, capito? Per dire, vado al centro storico, vado a farmi un giretto al bar, vado a correre già, prendo e parlo direttamente in PMR. È la migliore cosa che ci sia. Ma quale ci avete della PMR? Io ce n'ho uno omologato. Sono tutti omologati per noi, già lo sai. Canale 7, la frequenza è quella. No, io ho uno giocattolino, quello della Brondi, c'ho io. Sì, io voglio che ci arrivi a casa mia. C'è anche cosa, ce l'ha. Quindi, arrivi tranquillo, tranquillo con la Brondi. Con la Brondi arrivi, sai dove? Allora, da casa tua dovresti arrivare fino a Piazza Castello. Invece da Ussi, quando mi ero arrivato io, i portati della Brondi, da Ussi, dove abitava prima la Literai, arrivava tranquillamente in via Torino, figurati tu. No, io parlavo con Michele quando abitava giù, adesso mi ricordo perfettamente, ci siamo parlati tantissime volte, e poi c'era una ragazza che abitava qua vicino, lo stesso, quella neanche lo sapeva, pensava fosse un giocattolo dei bambini, l'aveva comprato per il figlio piccolo, poi un giorno si è messa a parlare, ce ne stava parlando lui, è entrata lì, ci hanno fatto una bella chiacchierata, e tra l'altro la conoscevo molto bene, questa qua. Figurati, basta provare, se vuoi provare anche adesso, mi... entro in PMR, non c'è problema, così fai la prova, vediamo se arrivi. Ma lo sai, devo anche cercarli, li ho messi da qualche parte, perché poi l'avevo tolto che c'erano le batterie, quelle ricaricabili, che non servivano a niente, si sono rovinate, non mi ricordo, aspetta, fammi vedere un attimo. Sì, guarda, io sto facendo il doppio passaggio in questo momento, in doppia radio, praticamente sto dicendo qua e là, col micro. Prova a vedere se arrivo, ne dubito con questo qua in tuo caso, Aspetta, passo in camera di Alice e ti chiamo subito. Ma aspetta le batterie, dai, vediamo se mi prende. Oh, negativo. Troppo piccolo questo. Dovrei prendere l'altro, ma ce l'ho un altro QTH o un camper. Non lo so, ma questo qua c'è anche lui, è troppo piccolo. Vabbè, ma stai parlando? Ci siete? Vi devo avvicinare alla finestra, aspetta. Insomma, non sento nessuno e mi sa che nessuno mi sente. Ho mi sposto un altro terrazzino, adesso facciamo la prova, dai. Fabio, a dove? Mi ascoltate sulla 27, ci avete un altro parlante acceso vicino, una parete accesa. Sento canale 10, attento Roberto, attento Antonello. Fabio, ci sei Fabio? Capo, Roberto, mi stavo aspettando perché, scusa, tanto, non sono in posizione, probabilmente ho qualcosa al microfono dell'Intec. Antonello mi diceva di avvicinarmi al microfono e parlare, però era attaccato. Io a Antonello lo sentivo troppo forte, saturo, quando era proprio track a scarico. Sì, capo, perché stava caricando radio sicuramente. Niente, io non apparecchio, insomma, come videocomando per stare lì ce l'ho, e poi sono altri, un altro paio piccolini, uno dei quali è un piccolino ma piuttosto serio a fare. Anzi, in effetti ti mando anche la foto, solo 8 canali, omologato, fin da per sé, tutto di quelli bloccati, è abbastanza serio. E di questo qua ho anche una versione, ce ne sono due uguali, sono a base per caricarli, tutto Intec. Allora già c'è anche io un altro parecchio più, molto più sofisticato per andare di lì, con potenze diverse, ma non ci vado. Capo, ma sono gli apparecchi che io tengo per emergenza, capito? Allora questo apparecchio è uno schifo, lo pronto, continuo a questo al campo, ci lo spagniamo. Niente, poi ne ho un altro piccolino che mi ha giocato, invece quello esce molto bene, dato per giocattolo. No, quello che c'ho non è un giocattolino, quello che c'ho io è un apparecchio abbastanza buono, diciamo, non dico eccesso, ma di grande marca. Questo è un giocattolino, questo Brondi. L'altro adesso l'ho attaccato, ma deve essere mezzo partito perché non l'ha neanche acceso, era già difettoso da prima, adesso deve essere dato l'ultimo colpo di grazia. Comunque è già uscito. A te, ma tu mi senti di Fabio? Ma negativo, no, ti ascoltavo. Siamo in computer di poggiorno, la tua parte, niente. Però ho dei palazzi davanti, lì è fondamentale essere artista. Però ti ho sentito per certi pezzettini, forse come ti sei mosso ti ho sentito per un attimo. Non è tanto possibile. No, questo qui, se ha questo problemino qua, toccherà aprirlo e trovarlo e vedere un attimino come esce. Dopo gli altri lì, vada mobile, Calderone, gli altri due. Però mi sa che mi porto appresso, soprattutto quello piccolino giocattolo, troppo tolo, perché cioè, se lo apri lo vedi, cioè, è fatto troppo bene, è un giocattolo ma è fatto come un HS, che è tutto detto, quei filtri giusti, le piazzati, la scheda seria, roba da mano, 30 euro. E anche questo, io ho la prova di CQ elettronica per modificarlo oppure renderlo un pochettino più coso, addirittura c'è la possibilità e c'è anche lo spazio per mettere l'antennina con l'attacco cos'è, BNC, con gli attacchi standard, viene benissimo senza rompere niente, lo apri perché non si possono modificare le antenne di questi cose, devono rimanere con l'antennina sua, però c'è lo spazio per farne l'antenna sua originale e mettere un attacco BNC a coso, a pannello e mettere l'antenna più performante. Calmo, però rimangono in legge con così come sono, tutto specificato, il tipo d'apparato, specificato la potenza, specificato anche la deviazione, per esempio niente tuni, perché sono quelli che hanno i tuni, e che sono comunque gli stati centri, non li puoi usare, non puoi usare il pip, un casino, quante restrizioni, fa un apparecchio per poi così alla fine, ma cosa vuol dire, ma fai anche mezzo watt, puoi utilizzare almeno 0,25, omologato. Mi sembra che sia, come hai detto tu, 0,10 o 0,25, no? La potenza ridicola, però c'è da dire che questi disturbano tanto, se questi li metti un'antenna fanno lunghe distanze e possono creare dei problemi, vanno a disturbare delle frequenze delicate per cose più importanti. Lo dici, io arrivo così puliti, digitali, tranquilli, cioè dai, mezzo fatto, dai, e facciamo mezzo fatto. Io ricordo che i primi che stavamo girando, sarà una quindicina di anni fa, sì, quelli più compatti, ne volevo prendere per l'azienda, no? Parlare tra noi, con gli operai, eccetera, magari uno sul tetto, no, aspetta un attimo, ok, manda piano, capito, per parte di tubi, eccetera. E mentre ero atterrata, lì sul golfo, che comprende anche un po' l'acqua più avanti, c'erano le imbarcazioni che stavano parlando sulle frequenze TMR, e quasi questo non voleva che noi ci parlassimo. Ho detto, ascolta, ve l'ho per attestare, cioè, lì che siamo stati molti tutti, e sulla scatola c'era tutto in grande, uso libero, senza licenza, senza tu. Intanto sono qua. Allora adesso la licenza, quando fai coso, la concessione per il baracchino, la tassa, devi indicare PML, perché se li utilizzi non hai la concessione, la tassa di utilizzo, il contributo annuale, ti prende una bella contravvenzione. Capa, sì, ho sentito, sì, entrato. Sì, infatti, anch'io ho parlato lì, perché se io il PML, no, perché non gli ho messo licenza, capito? Non potevi usare, a volte potrebbe essere importante, bello, non lo so. Io ne avevo due di questi qua, mi ha dato mio cugino che lui li usava per lavoro, l'avevano a Fiume Santo, facevano dei lavori e li utilizzavano questi con la tastierina, quelli diciamo un pochettino più sofisticati, poi alla fine li hanno lasciati perdere e sono andati con questi più giocattolini, dai. Però quello spinge, quell'altro là c'ha 5 watt, quello che sto dicendo io. Capa, anche ne uno così, ma perfetto, tra l'altro, dentro la sua bustina di velluto, capito? Praticamente lo accendo ogni tanto, ascolto 10 minuti di perché c'è anche l'FM di radio freccia, poi lo rifoco perché una volta l'ho usato posto di consonetto. Te lo ricordi il letto? Oh, io non l'ho mai utilizzato. Della ICOM, quello che ho io, è anche un bel apparecchio. Ne avevo due, uno l'ho dato a una persona. Lasciamo perdere questo personaggio, quello già ce l'ho legato al dito. Va, addirittura, non te l'ho pagato. Non ho pagato, questo ha fatto, già ti racconterò la Quattrucchi, da un personaggio, una persona che lo fa per mestiere, da. Perché erano tutti e due, c'era Nettuno, non so che cacchio doveva fare, ho detto, me li aveva sbloccati, e gli ho detto, tenetene uno, e poi doveva farmi un altro tipo di lavoro, gli avevo anticipato anche molti soldini, molti euro, bruciato tutto, poi alla fine me l'ho recuperato l'apparato, perché stava tirando 2 anni, ce l'aveva, un personaggio, non ti dico qua, ma al momento opportuno già te lo racconto. Aspetta, sto facendo un attimino un PMR con Fabietto, quello che abita qui vicino. Vediamo se lo sentite. Tanto abita qua. Vabbè, io ho già tolto le batterie, dai, adesso è tutto a posto. Dai, adesso vado a riposarmi un pochettino. Dai, Antonello, Fabio, ci sentiamo magari domani più tranquilli, dai. Ok, ciao a tutti, buonanotte, io vado a dormire. Correte da parte mia. Dai, io ti seguo in corretti, Antonello senza il PMR. Siamo da solo. Niente, mi vado a riposare, eccetera, anch'io. Ti manderò la foto di una radio che mi ha regalato oggi, Roberto. Una radio che ha 10 bande, capito? Analogica, di ultima costruzione, cioè avrà un paio d'anni di vita, anche il modello, un paio d'anni di vita, ed è allucinante perché in shortwave, quando vai a sintonizzarla, ti dà l'effetto AFC che praticamente lo sento solo su quella che c'hai tu, su satellite. Mandamela così, sono curioso, ti manca? Non è a marcia, addirittura c'è un adesivo con la città 200 watt, PMPO. Cacchio, occhio che lo scoppi. Sì, ha 200 watt che fa con 2 torce, come fa? Fanno ridere, i cinesi sono micidiali, cacchio. Vabbè, dai, di nuovo vi saluto, ciao, ciao, ciao. Scappa, dove? Sto mandando la foto.